ieri provi a farti qualche spezzone. Se vedi, tu lo provi, se avvitta, no, prima di piazzarlo. Se avvitta, lo prendi, lo piazza e ti fa lo spezzone nuovo. Perché buttarli via? Li sostituisci solo la ghiera, capito? Beh sì, si può fare. Io adesso te le metto da parte le ghiere che ho e li provi. Tu prova la nel tuo apparecchio, si avvitano. Se avvitano il tuo apparecchio, avvitano in tutti. Ehi, se le mie abitavano tutte, non ne ho mai avuto di quelle che non abitavano. E allora basta, allora andali bene. Se ti dico di zenni, ti dico quelli ieri, di BL, le BL che danno i ronfi. O che era in teflon e si murinava rugia centrale, anche quello che ho cambiato era in teflon, perché non ne avevo altri di BL, non mi sono fidato a prenderli da Fusaro. Quello di su già è buono, invece quello di giù che attacca l'apparato era in teflon e girava da solo il centrale. Io quello che c'ho su è di quelli antichi che si avvita la massa, ce l'hai presente, invece che si avvita, proprio avvita e entra la massa, a forza le avviti. E allora, io adesso speriamo che siano buoni questi PL che mi arrivano così, faccio qualche spezzone, quelli in RG58 li elimino tutti e me li faccio in RG213, già ne ho qua, me li faccio a misura proprio. Il messaggio che più niente, ma devo portare lei là perché non ce la faccio. Oh via, niente. Il poverino. E diglielo a Elena se te lo porta. Che cavolo. Già lo so cosa stai passando. Un dolore. Quando sono andato a comprarmi il frigo nuovo, mamma mia. Non gli funzionava il POS a quel disgraziato, perché l'ho pagato in contanti, no? Sono dovuto andare a Città Mercato, io non lo sapevo che era così lontano. Distrutto ne sono tornato qua. Già lo sai che mi viene quel dolore allucinante quando sforzo la gamba. Ma l'hai preso poi? Sì che l'ho preso, non rifunzionava Rubossa, Guido, non mi accettava la carta mia. Sono andato a Rubossa, a Bancomat di Rubanco di Sardegna e subito mi l'ha pigliata. A Giubrelle vado pure a Ributi, quindi la carta mia non c'ha niente, è lui che ha il posto che non serve. E così è successo l'altro giorno, è venuto quello delle pizze e ti portassi il posto appresso perché c'avevo pochi liquidi, dovevo andare a ritirare. È venuto con il posto, invece non passava, meno male c'era Manuela, ha passato il suo e l'ha preso. Dice il suo posto, no, non è il mio, perché io poi sono andato a fare ripresa tranquillamente, me l'ha bigliato. Oh, stamattina ho telefonato a Bombolino e ho pagato anche la bombola, ti dico di più, stamattina. E il posto di quello lì che non funzionava. Perché Bombolino il posto ce l'ha? Ehi, c'ha quello portatile, ce l'aveva in tasca. Gli ho appoggiato la carta e ha subito bagato. Cosa c'è in chi via a tirare la ronga? Ho messo il PIN e ha accettato tutto. Un macello con queste carte. Io adesso a me mi è scaduta la carta di credito, ma non la rinnovo più. Adesso sono andato l'altro giorno per farla annullare e invece verrà un bel di ieri, gli ho chiesto scusi, un'informazione, no, aspetti la sua fila, faccia la fila, aspetti il suo turno e buonanotte, arrivederci. E ciao ciao, l'avevo detto, non ha più trattato e basta. Da voi quando vi lasciate a bocca vira e andate, me l'avevo fatta nulla. Io ho messo tempo con chi ci sono stati, ah, vai ranca chi non la vuoi trattare, non ne capiscono, no, questa gente. Chido mi ha fatto morire, ma addirittura ce la doveva entrare la carta, perché non aveva, né, era di quei posti vecchi deve essere, che non aveva il contactless, quello che tu appoggi la carta e la legge, ma vada a fanguarla. Non funzionava proprio, cazzo. E dice che con contactless adesso si può prelevare fino a 50 euro. Ma non lo so, io ho giù bagato una bombola e ci ho mangiato. poi ho prelevato alle poste, ho prelevato al Banco di Sardegna, quindi la carta mia non c'ha niente. Se il bancomat non la rifiuta vuol dire che va bene, è il posto di quello là che non andava. Magari certe carte, per dire, dai cinesi mi ha detto già quel tipo di carta che non la legge. Il mio banco ha dovuto pagare i contanti, avevo preso magliette, questo, quell'altro, e ho dovuto pagare con contanti. E c'era anche un bel gruzzolo, sulle 120 euro avevo speso. E dice che quello tipo di carta della San Paolo non passa. Ma vadano a fanguarla già, uia. Io purtroppo sono dovuto andare al bancomat perché il frigorifero costava una fottuta di soldi, non ce li avevo i contanti a pagare il frigo, perché l'ho preso in contanti, capito? A me non mi piacciono i ratti, quando mi piglio la cosa meraviglia che va giù di là. Vabbè, Natalia, ci sono momenti che lo puoi fare, momenti che magari ti serve la roba e per forza sei costretto a pagarla a rate. Per dire, se compri mobili e roba del genere, non li puoi pigliare contanti, no? Infatti. Mi sembra che c'erano 150 o 200 euro in contanti solo. E cosa vai? Sono dovuto andare al bancomat di Città Mercato. Lì un cavolo, è alla fine di Città Mercato, il bancomat. Cavolo, se lo dici a piedi, Gesù Cristo mio, come ti sono arrivato. Se avevi pigliato la macchina, avevi fatto un dritto. Io Natale dalla banca me ne sono andato perché non riuscivo a stare in piedi, era anche con la stampella, ma quello lì non ha avuto nessuna sensibilità, infatti mi pare meno a giambo che sa banca, non mi piace come trattano la gente. Pigliatene una vicino qua, che non devi fare molta strada, tanto una banca vale l'altra. Non c'era qua a casa, in via Pascoli, la Nisarrada. Tutte canne un anno grigino, vero Banco di Sardegna, vicino a Rubonti, mi. Proprio. La trovi qualche banca qua vicino, che non devi fare molta strada, non sei da ammazzare. No, ma lì non si trattava di strada, la macchina l'ho messa davanti alla banca, già una mi ha detto, questo qui lì non si può parcheggiare, quel parcheggio per gli invalidi, una tipa che ha detto io sono invalido, e si è buttato il vetro a vedere se c'avevo il tesserino attaccato, no? Poi mi ha visto scendendo con la stampella, e allora con prisa se n'è andata, ma cosa cacchi vuoi? Infatti. E gli ho detto, ma come può stare dove è parcheggiato, se per questo? E cosa vuol dire? Io sono invalido, ho detto comunque. Ma ancora gli ho detto, può stare dove è parcheggiato? Vede che c'è scritto, praticamente era una via riservata solo a... praticamente a chi aveva i negozi lì, capito? Non si poteva entrare. E lei è entrata dentro e praticamente l'ha parcheggiata lo stesso. Figurati. E da proprio non dovevi avvisare. Sì, ma lo sai perché? Perché ho suonato, perché il tipo che stava parlando con lei era proprio davanti al parcheggio, no? Io l'ho suonato, ho detto, guardi che lei non può parcheggiare lì che per invalido, ed io sono invalido, lei perché può parcheggiare lì? Qual è proprietà privata? C'è anche scritto. Quindi tu manchi in trappi, bui, no? Ma dove sta gente che non si fa i cazzi sui, non lo capisco, proprio, io vivo, lascio vivere, cosa mi ne affutti, anche se parcheggia la seconda fila, non mi sono mai permesso di dire niente a nessuno io. Infatti, vivi e lascia vivere, cosa di ne affutti, mai io. Io cartellino non ne ho, però sono invalido all'80%, Natalia, non ne ho mai fatto, dico la verità. Lo so, neanche io ne ho mai fatto, io non sono invalido. Sono invalido e più uno posso camminare a vero, figuriamoci. Ma non so cosa dire qua, c'è gente proprio che vuol pigliare dai muri. È come quello l'altro giorno, sono andato dal dottore con la stampella, mi hanno visto, mi stavo sedendo, questo signore anziano tra l'altro mi ha detto: no, esca fuori, non può stare qua, massimo 4 persone. E ho detto: guardi che io non ce la faccio, che mi vede come sono, non ce la faccio a stare in piedi. A me non me ne frega niente, anche io non, anche a me mi fa male la gamba, eppure sono fuori perché non posso entrare. A giubilato non ho voluto bisticciare, me ne sono andato e sono ritornato alle 11 meno 5, quando il dottore chiude alle 11, no, non c'era più nessuno, sono entrato e uscito. E questa signora che era rimasta lì mi ha detto: lei non se ne doveva andare, doveva sedersi e lasciarlo cantare. E cavolo, quando mai non c'era un po' di sensibilità nei confronti degli altri? E non so, io ho detto: io quando vedo un anziano mi alzo e lo faccio sedere. Ho sempre fatto così perché mi hanno insegnato questa educazione qua. Poi ho fatto 14 anni di servizio ambulanza, di bene ne ho fatto 80, eppure la gente vedi come si comporta. Infatti, ma c'è gente maleducata proprio, guarda, ma sorvoliamo che è meglio. Gianni, ma perché l'Inghilterra non ti ha rilasciato niente, nessun tesserino? No. Perché non te l'ha rilasciato? Tu l'aveva rilasciato, mia moglie ce l'ha. E io ce l'ho il cartellino, sono per comando dei Germani, dottor Serra, ho fatto vedere il tesserino, ho detto la documentazione e mi hanno rilasciato il cartellino, ce l'ho in macchina. Giustamente non è che io ne approfitto, che non va bene assolutamente, però quando c'è mia moglie in macchina che io vado ad accompagnarla, usufruisco dello stato degli invalidi. Ma te l'ha fatto l'Inps? L'Inps gli ha rilasciato il cartellino, capito? C'è il cartellino dell'invalidità, degli invalidi, quindi non paga i tram, non da nessuna parte. E con quello io sono andato al comando dei vigili, mi hanno fatto il cartellino per mettere la macchina, il palloncino. Ce l'ho nel cassetto, però quando accompagno mia moglie a fare le visite, soprattutto al policlinico, qua a Sassari, io usufruisco dello stallo degli invalidi, metto il cartellino perché c'è uno stallo degli invalidi, ma non siamo di tempo. Lo so. E ti danno una carta adesso con la fotografia e tutto, devi fare la domanda all'INPS e te la danno, la carta degli invalidi è proprio, non ce l'ho neanche io, è uscita da poco questa storia, però se vai con quella e con i documenti, come che tu non puoi deambulare, ti fanno il cartellino degli invalidi per la macchina. Quello lì ci vuole, se vuoi che ti rispettino per avere quello, perché se non c'è quello non puoi mancare la volta, capito? Uno alla volta, ma cortesemente, dottor, guarda, posso parcheggiare qui, c'è mia moglie che no, quando l'avevano operata all'Orcevaldo, ecco, ma sta scherzando, lo faccia scendere, ci metta qua, e mi ha fatto mettere uno stallo di invalidi, però adesso io c'ho il cartellino qui, non me la futti nulla. Quando esco con lei che andiamo a fare le visite, io usufruisco di quello, fatevelo fare, se ci avete l'invalidità vi spetta di diritto. Dai, ci sentiamo dopo che mi sto facendo la batta, vai Gianni. Ma Gianni non riprende. Io ho l'invalidità al 75%, ma se io faccio l'aggravamento, altro che quello, cioè, figurati. Io non posso camminare vivo. Gianni? Cattarino, ci sei? Musi. Allora, mi ha chiamato un'amica per vedere come stavo. E io ok. Ma puoi stare adesso o no? Se te ne stai andando? No, io posso stare, Elena si sta portando il cane, poi quando sale Elena lo pulisco e mangiamo, ma adesso ancora deve portarlo giù una mezz'oretta. E ok, ha già capito. Via. Casino è Natalino. Cazzo, almeno ci fosse qualche cura per curarmelo senza operarlo, questa cosa qui. E infatti. Può darsi che bisogna vedere cosa c'hai adesso a questa gamba, boh. Se lei o se non c'hai nulla. Praticamente questa signora che c'era quando ho fatto la risonanza magnetica mi ha detto che al marito gli hanno fatto l'iniezione di potassio, aveva la stessa cosa mia, gli hanno fatto l'iniezione di potassio e gli è passato. Di una voce a chi si aggustiglia. È vero. Tanto iniezione, iniezione, per iniezione. Non c'è nessuno che me le può fare, cosa faccio? Elena teme perché c'è il lago grande. Se fosse stato il lago più piccolo, ha detto sì, ma con il lago così lungo ho paura che si spezzi. E che vuoi fare. E quindi me le sto facendo io, capito? Ma come me le faccio? Cioè, io non è che veda il punto dove le faccio, capito? Posso farle anche sopra una all'altra e andare su curazione, quello è il problema. Io ho capito. Ma io non le so fare, la verità. No, io sì, l'ho fatta anche ad altri, l'ho fatta anche a te. Lo so, io non vi so curvare. Io so fare solo quelle sottopelle, bu. Natali, cosa si, come si fa? Si divide la coscia in quattro, la parte esterna, dove c'è la polpa, se fa l'iniezione. Sì, già lo so, ma non ho mai provato a farle, la verità si dica. E vabbè Natali, tutto farla le prime volte, perché con Liliana quando ne abbiamo avuto bisogno ce l'abbiamo fatte uno con l'altro e abbiamo imparato tutti e due. Mamma le faceva, a me me l'ha insegnato mamma come farle, mamma le faceva, andava anche a farle ad altri, perché all'inizio le faceva per favore, no? Poi se la sparsa la voce che le faceva e tutti, signora Maria me le faceva, allora si doveva bollire la siringa, perché non erano come adesso, si bollivano le siringhe, quella specie di cosa di tegamino che si mette a bollire l'acqua, da bollire la siringa, consumare gas, andarci a piedi, alla fine poi si è fatta pagare. Ehi, a un grido, mia zia mi le faceva lo stesso, zia io le so fare, ma una mano mi... Cazzo. Vabbè, era la perché teme, capito? Si è appoggiata, non ha avuto paura, no Gianni, non ce la faccio, vabbè, per farmi male meglio che non me li vai. Sì, infatti. Ui. Cura noi, gas. A vecchiaia tutti rimarranno. E allora già ti arrangia di Natali. E infatti, è proprio il caso di dirlo, Santa Arrangia di E. E perché l'altro giorno quando sono andato al policlinico, dal parcheggio che c'è del policlinico, sino a fare tutto il giro per andare, cazzo, era andato come che un tussuino, andando piano piano, intanto mi fermavo, oh, io non mi raffattivo, Guarda, mi sono fermato in mezzo al marciapiede, mi sono fermato, mi sono adagiato sulla stampella perché non ce la facevo. E questa ragazza si è girata a guardare, mi ha detto, ma male si sente? No, è che sono stanco, non ce la faccio. Ah, è partita da dritto, per dirti. E sono entrato poi al policlinico, poi in fondo per fare quello, poi per andare a presentare l'accettazione, insomma tutte queste strade qua a me mi sono costate, io le misuro i passi adesso, se per dire prima andavo a prendere una cosa, poi ritornavo indietro e prendevo l'altra, adesso le piglio tutte e due insieme, capito, per non tornare indietro. Sì, non dirlo a me, però io, se ti sto dicendo che quel pirla mi ha detto, mi vada lì a Cittamercato, che è lì vicino il corso, vicino a Riduire, in fondo a Cittamercato, zia, l'Uvancomat, perché io non avevo soldi contanti appresso, cazzo, giù pagato in contanti e giù tu fai tutta quella gassa, mi pare proprio un 200 euro in contanti e buh. Ma grande l'hai preso Natali? Come quello che c'era, piccolo cosa mi ne posso? Si devo andare sul gelatore, come si può su... È sempre a due porte, l'ho preso in acciaio, bello, è grande come quello che avevo io. Quello là, mi ci sono marcite le cerniere delle porte, perché il gas c'era nel compressore, era da lì che perdeva, ma la sorte, dalle porte, perché non chiudevano bene. Il compressore te lo puoi usare, ti pieghi il tubo e ti serve come compressore per gonfiare palloni, per fare tutte queste cose. Ma l'hai buttato via il frigorifero. E allora, mi ha giocato la valvola che si esempi, perché quella gliel'avevo piazzata io, per poterlo ricaricare. Ho capito. E chi te l'ha portato via, loro? No, ho dovuto mettergli il numero e chiamare quelli dell'ecocentro. Mi hanno detto me lo portavano via, ma ragione si vedo un frigorifero in chivi. Tu conta se ha giù tu buttato in il gassonetti di Amondezza. E come ti hai fatto? E mi sono fatto dare una mano, a traginone ti l'hanno buttato. Perché di solito chi viene a prenderlo gli dai 40 euro e ce lo portano via. 30 euro gli ho dato e l'hanno lasciato lì quei bastardi. Ma ricordo una pubblicità e ha chiesto che si navarà all'inghiriti, un bastardo. Se non gli ha dato neanche la bolla di accompagnamento e nello scontrino, sono dovuto riscendere a farmi dare lo scontrino per la garanzia. Ma te lo puoi immaginare che bastardo, basta c'è napolitano, cazzo. Ma dove l'hai preso? Da coso? Da... al mercato dei fusci? Sì, nuovo l'ho preso, è arrivato imballato e tutto, no? Non è quello che c'era lì, no? Ma ne hanno dato uno nuovo, quelli là che sono in esposizione non te li danno, no? E quello c'ha lavatrici, frigoriferi, di tutto va. Perché prende, quando vanno in fallimento le ditte si prende la roba anche nuova. Sono nuovi, infatti io me l'ha fatto pagare, costano una barca di soldi questi cazzo di frigoriferi. Lui è forte, uno per il frigorifero e uno per il surgelatore. È in fredda che cosa amara, L'ho dovuto lasciare un bel po' in modo che il gas si ripristinasse prima di accenderlo. E l'olio, perché quando loro lo trasportano non lo puoi accendere subito, che se no scoppia il compressore. Già lo so, perché anche quando portavamo i frigoriferi dalla ditta non li accendevano subito, li lavavano prima tutto quanto, poi si accendevano con calma, li lasciavano riposare. Perché c'è l'olio che deve rimettersi a posto del compressore, il gas deve riscendere dove era e quindi bisogna lagarlo un po', sennò cazzo si faccia il compressore. Un amico mio, quando era acceso, ci aveva fatto dal compressore del frigorifero, aveva piegato un tubo di modo che non passasse l'aria e uno l'aveva utilizzato e si gonfiava il materassino per coricarsi di notte. Siccome il tiro gonfiato. Lo so, basta usare la rovescia, anche la ti aspira, no? Aspira l'aria e se lo usi alla rovescia ti fa la pompa del vuoto, addirittura. E quindi tu se vuoi fare il vuoto lo fai con quel compressore lì, se ne aspira tutto il gas e così quando tu carichi entra bene tutto, capito? Perché bisogna fargli il vuoto. Ho capito, dai. Vabbè, la papira è nuovo, di una futtina. Vabbè, è tutta un'altra cosa, dai. L'ho caricato già 3 volte, quello vecchio. Infatti c'ho il gas per la macchina e per il frigorifero. Ma non la perdei, ma una carica. E cosa? No, da voi di un po' si cargheggia e in fredda di manco. Sì, poi ci aveva tutti i tubi messi male, sicuramente, per quello che si scaricava. 3 volte era giù gargato. Infatti a Rabini ci sono marcite quelle cerniere, me l'ho preso nuovo, almeno è nuovo e buono. Aspetta che vado a spegnere la luce, che era se l'ha lasciata accesa. Sì. Ma no, te lo sentono nessuno anche lì. Io quando rientra a Concetta spengo tutto e mi si go. Non lo so se entra qualcuno la notte, L'altra notte già stavamo parlando, però io tra un po' quando vengo in Concetta già tu. Tanto a che dura mi devo fare la nisione, mi devo misurare la glicemia e poi mi curo. Ho capito. Adesso aspetto anch'io Elena, quando rientra ceniamo. Non ce la faccio la tari sotto dal dolore, se no non ce l'abbiamo mandata da chissura. Infatti, è proprio perché c'hai quel dolore lì. E come ti vai a pucciare su cane, mamma mia. Come tira voi, dolore a reddito, come tira, guai. Come io vado a ritirarlo indietro, no, come tira. Come faccio lo sforzo, il muscolo, io sto pensando che sia roba di muscoli o di nervi, E anni venne a capo una risonanza già. Speriamo che sia quello di fare quelle iniezioni lì, di una volta. Non manco uno stai ad operare. E questa signora ha detto che ha fatto le iniezioni di coso. Ed è passata al marito. Mi dice adesso non c'è più, però quando ha avuto questa roba ha fatto le lezioni o di azoto, qualcosa del genere mi ha detto, se fosse di azoto, non lo so, e vabbè, comunque mi ha detto ha fatto queste lezioni, gli è passato tutto. Figurati un po', a chi si va in Italia, si vive qualche cosa curabile, senza operarsi ci dovrebbe essere, penso, E chi lo sa, magari non si vede ma con la radiografia, invece con la risonanza si vede, magari l'osso ce l'ha dietro che è consumato e lo si vede, capito? Si è lesionato l'osso, si deve operare poi forse, ma sono bravi lì al policlinico, perché c'hanno due sale operatori, una per l'ortopedia e l'altra per la chirurgia, no? Quando hanno operato a me stavano operando uno di ortopedia, lo so per quello che ci sono gli ortopedici lì che operano. Sì, operano, cioè vengono da fuori, non sono di qua, vengono da fuori un'equipe che c'è un robot che opera con robot. E le tecniche moderne usano, già lo credo. A me invece da Brimi, come in Tanabisti, ho un collega lì che sta facendo il corso con me, per fare la stessa operazione l'hanno aperto a questo. Invece a me mi hanno cucito 4 bugnarabbi, tutto vato. Sì, fanno dei buchettini, non sono invasive le operazioni adesso, sono più tranquille, ma io sto soffrendo troppo. Lei mi ha detto che stasera lo stesso, mio marito era mesi e mesi che soffriva, a saperlo da prima, oi, faceva iniezioni, che ucchi, questo, quello, si è rovinato anche lo stomaco, ma infatti io sto cercando di non prendere, Natali, magari non vi ravvai più. Lo so, ti rovinano lo stomaco purtroppo, queste cose qua, già lo so già. Mamma mia, io addirittura manco prenderne ne posso, perché prendo la cardiaspirina, e la cardiaspirina è contraria, non ne posso bigliare. Ma io quando non ce la faccio la prendo, Natali, e cosa devi fare? Non puoi morire di dolore, no? Da gridare, cazzo, la notte a volte sono addormentato, mi sto per assopire, dopo tanto, verso le 4 così mi comincia a venirmi il sonno, sto come mi sta assopendo avere il dolore, mi scende addora, non trovo più. Io per operarmi ho dovuto smettere 2 volte di prenderla la cardiaspirina, perché se no non mi potevano operare, hai capito? Hanno chiesto il permesso al mio medico, capito? E allora quando il medico gli ha dato l'ordine di smettere per 4 giorni, mi sembra che era, che non ne dovevo prendere. Mi hanno operato e tu sei andato 2, hai compreso? Ma se tu vedi che i dubbi mi stanno entrando a me, fini fini, insomma, sono lunghi, 50 centimetri, io li ho visti in sala operatoria, però poi mi sono addormentato, meno male. Cazzo, ci dico di una bugnata così che hanno suicidato, guai. Aspetta un attimo, sono solo. Poi, la 50 sta rientrando. Va bene, allora dai, ti lascio, così almeno andate a Ninna. No, è ancora a Ghizzu, a Candarilesi, a potermi misurare la glicemia, a farmi la cosa, l'anisione, che ora so, e è presto ancora. E aspetta un attimo, mi sta chiamando. E già si sente. E siccome sta buttando le bottiglie di vetro, mi ha detto lascia aperto e la capisco. Dai, io sono sentita. È molto squillante la voce. Di San Baracchino come va? Già in lontananza si sente bella squillante. Senti, sto dicendo, se lei parla io non mi sento. Mi sovramodula, di brutto pure. Beh, le donne hanno la voce più squillante. Cazzo, io non ho toccato libro per niente durante questo mese di vacanza. Nulla. Beh, lo sai che Antonio si è divertito, anche le domande trabocchetto mi faceva, io sapevo tutto ieri. Si è divertito blu. Che Antonio Bobo? No, quello che insegna lì. Ah, ho capito. Vabbè, meglio così, Natali. Bravo, Natali, ha risposto proprio bene. signor Griglia, abbiamo fatto una lezione di russo ieri. Ha fatto pure una domanda a trabocchetto, no? Se a vedere come si poteva collegare l'amperometro, mi ha detto. Io gliel'ho detto, no? Però da voi mi ha fatto una domanda, siccome lo devi collegare in serie al positivo l'amperometro, perché ti misura l'assorbimento praticamente, no? E mi ha detto se lo potevo collegare anche in parallelo, no? Che fa corto a giudizio e scoppia. Se lo colleghi in parallelo come il voltimetro, cazzo, tira una botta, basi, pum. Ma sono cose che bisogna sapere, Natale, se uno non è addentrato, se uno non è del mestiere o che non ha studiato, non può saperle certe cose. Beh, certo. Sono cose che bisogna studiare e quando le studi ti rimangono impresse, sempre che ti ricordi quello che studi, perché io non penso di avere più il coso di ricordarmi tutto, non è più come prima. No, ma te lo spiegano. Ne lascio due soli. Ehi, ma non ti buoni a botti, non c'è, mi faccio il microfono così. Non mi credi? Sentito l'hai già. Ci siamo andato. A quel paese. KK. Ma le donne di chiesa parolacce non le devono dire. E a voglia se le dice. Specialmente quando è incavolata. Mamma mia. E vabbè, sto scherzando. Che non le dici? Quando siamo incavolati un po' tutti le diciamo. A te l'immagine, posso usare solo questo qua perché non ho spezzoni, nulla, non posso fare nulla. Ho collegato il rosmetro solo e basta, perché non c'ho spezzoni. E il cavo dell'antenna, perché gli ho messo un PL che mi era avanzato in bacchelite da uno spezzone, no, l'ho preso, ho tagliato lo spezzone e gli ho messo quel PL lì perché voleva per il G213, no? Cazzo, girava da solo, il centrale, il positivo, no? Il polo caldo, girava da solo nel cavo dell'antenna. Perché come si è andato il centrale si è sciolto sicuramente. No, era nuvo che girava. Io non li scaldo, non è scaldato nulla, era il PL difettoso proprio. Se addirittura quelli in bacchelite mi ne ho trovato difettosi, addirittura mi c'era bacchelite in tria con vidro centrale. Come tu avvitavi il coso, invece di bloccarsi, come tu avvitavi il cavo, ne usciva il pezzo della bacchelite e tutto, e si rudovi lampato. Sì, buonanotte, erano fatte a spucco. Poi, PL del cavolo proprio, infatti, speriamo che siano buoni quelli che ho ordinato. Vido che sta giù buttando in antenna, era uno di chi di vecchi, gatta, che vivo la bomba ai fasciali. Quelli vecchi erano migliori, io ce l'ho sull'antenna praticamente, sono di quelli di tanti anni fa, no? E tu metti il centrale e poi avviti il coso, avviti la massa, avviti e poi saldi il centrale. E tiene bene, cavolo, non si muove di un millimetro. E quello che c'è sull'antenna è uno di quelli vecchi. Invece questo qui era in teflon, era di quelli proprio, mamma mia. E non è né scaldato né niente, perché l'ho appoggiato solo il coso, gli ho messo lo stagno e nulla. Non è che l'ho scaldato e né niente. È che deve essere tutti nendi del Regio 213, magari se mentre tutti nendi lo centrale girava a biudo. Perché quel cavo è pesante, capito? Infatti ho preso quelli in bacchelite. 12, ne ho ordinato. Almeno mi posso fare qualche spezzone, ma non i vostri ne vedo 58. Tanto finiscono male. Oh! È Bariuvio. Oh yeah. Mamma mia. Vabbè dai, io al limite se ti serve te lo do io, se lo trovo uno di quelli nuovi te lo do, ci metti la ghiera dei tuoi. Ah, ma quando mi arrivano? Mi arriveranno lunedì penso, domenica o lunedì. Se mi arrivano, se madama, non c'è problema. io ti metto da parte quelle ghiere e tu vi sostituisci la ghiera, vedrai che è affitta. Sei è fatto. E tu non stai da fare biele ma una ghiera fatta male, perché quelle sono ghiere che hanno fatto la flettatura chissà come, non lo so, o c'è il passo diverso, non abitano. E va basta toglierne uno di pietra e pensandoci bene le puoi cambiare tutti e due. Infatti le ghiere le cambi, ne smonti uno solo, no? E infatti. Ah ma vediamo su Natali. Dai su punto, perché se la ghiera difettosa tu gli metti la ghiera di quelle vecchie che avvitano, tu sei un signore, promosso al 100%. E almeno devo fare solo 6, non 12, sennò cazzo, 12 piedi sono un problema. Già lo so, io purtroppo questi che avevo in RG58 mi rigavo a chi andami subito in corto, mamma mia. No, li faccio in 213 che già ce l'ho qua. C'ho anche RG58, ma lo faccio in RG213. Almeno sono accordati e buh. No, io lo faccio con l'H100, li ho fatti. Con l'H100 lo stesso che ho messo sull'antenna. Penso che mi ha vantato, ho fatto 6 spezzoni. Infatti io con il 213 li faccio. Già è messi i palloni, già è di quello buono. E glieli faccio su misura. Già attaccato il rosmetro per quello, vanno futtimi, almeno sono sempre le stazionarie che c'ha. Vabbè, si muove appena appena. Lo so, non te ne dà stazionari, lo so, anche la mia era così. È una bomba quella antenna. Aspetta col vento, vediamo un po' come si comporta, perché a me me l'ha truncata. Non lo so. Mica piglia di batturati, mica. Eppure sempre su. Anche Gianfranco l'ha detto, che la sua sta pagata, ma l'antenna già c'è, già. E ci aveva il piede messo male anche lui. E ha dovuto rimettere il piede nuovo. È proprio spazzatura quella che ci hanno venduto. Guarda, come antenna quella lì è buona, è il materiale esterno che non serve, capito? Poi si vetrifica, me ne ha parlato anche Marco Scorpio, me l'ha detto che si vetrifica quel materiale e poi non serve più. Ma quando non serve più pigliamo tubi di coso, di quelli di corrente, di varie misure e ce la rifacciamo a nuovo. Molto ci vuole. Non dimmi che ci... Vabbè, io l'ho fatta la prova, mi è andata male, pazienza, ci ho buttato 200 euro perché allora costava 200 euro. E costano pure come antenne. Questo è un imburu. È un macello. E a Rosasa dico, se mi si faccia gli dico grazie. Almeno metto qualche dipolo ed è fatto, non ne pongo più antenne, la fanguardia. Il tubo me lo uso per mettermi di puli e buco. Almeno se prendo quel pezzo di carta. Ma posso... non devo lavare le bottiglie dell'olio a buttarle nel vetro? No, buttale nel vetro. In teoria bisogna sciacquarle. Lo so. Ma è di buona, sciacqua tutto canto, ui. Prima si attaccavano anche se c'era il vetro con la carta attaccata, ti dicevano cose. Lo so. Allora, se hai chi c'è, devi sciacquare le sciacquature. Erano lo stesso, le lava tutte quelle pomodori, tutte quante le lava. Anche io quelle lì le lavo prima di metterle per buttarle via. Quelle le lavo, non le lavo brutti, no? Ma sai che c'è un'opposizione da fare che... Cioè, mi sono illuminata tutta la stazione di blu. Luce notturna, ero cazzo da luce, almeno così si vede. Ho capito. Ma dimmi dove tocca c'è un viciapparecchio e non va a canale, non va un cavolo. Non ce l'ha, non c'è anche la bandiera laterale quello. Ma va 40 canali Zuru, 4 watt, e questo non lo posso aprire che va giù Zuru Vizio, capito? Questo è omologato. KK. Ce l'ha anche Claudio adesso, però deve essere pompato perché gli dà 8 watt. E quelli dalla fabbrica, quando non è omologato, c'hanno 8 watt, già lo so. E Buru si trattruga a vite e la binsetta batterà negli su, va giù i canali, va giù tutto. Chi ci va 240 canali si labbri, ma per l'omologazione quello è. Io temo che vengano a controllarmi e mi fregano. Invece ce l'ho omologato e non mi buoni di nulla. Marcato c'è. E io va tutto marcato c'è. Tutto marcato c'è. Infatti. Ne ho uno per la macchina che non è marcato c'è. Però se prendo la patente me ne sbatto del marco c'è. Perché c'è la patente e puoi usare tutto. Un radioamatore si presume che se li possa anche costruire gli apparecchi, anzi se li dovrebbe costruire, non è che deve andare con la carta e comprarsi la roba nuova, no? Un radioamatore è uno sperimentatore, capito? Non ne ha bisogno che sia marcato c'è. Io la boda Natale ti lascio che arriva a te la Golcane, adesso vado a pulirlo. Ciao, ci sentiamo, buona serata. Altrettanto, va, grazie per le quattro chiacchiere. Ci sentiamo alle prossime.